frequenze Sui Generis. Innamorati del femminismo. E innamoratevi del femminismo. Noi speriamo nel corso di queste puntate, in questi mesi, di essere riuscita a farvi innamorare almeno un po', perché vi dobbiamo dire che questa è proprio l'ultima puntata di questa stagione di Frequenze Sui Generis. Finiamo decisamente col botto, perché in questo periodo le scuole sono finite, ma abbiamo proprio deciso di parlare di scuola, perché tanti bambini, bambine, genitori, nonni si stanno trovando, magari iniziano a trovarsi alle prese coi compiti delle vacanze, e anche lì, ebbene sì, si annidano delle stereotipi sessisti molto molto forti. Ma non anticipiamo nulla, perché come sempre andiamo a scoprire chi ci accompagnerà musicalmente per questa puntata. Quindi, cara Vivi, che sei in studio qui insieme a me, lascio la parola a te per presentarci la cantante di questa giornata. Bene Mari, noi abbiamo iniziato a ottobre con Patti Smith, se ci seguite dall'inizio, quindi ho voluto terminare questo ciclo di puntate con un'altra regina della musica internazionale. Sto parlando di Aretha Franklin, soprannominata la regina del soul o Lady Soul, per la sua capacità di aggiungere una vena soul a qualsiasi cosa canti e per le sue enormi qualità vocali. Pensate che lo stato del Michigan ha ufficialmente dichiarato la sua voce una meraviglia della natura. Il 9 febbraio 2017 ha annunciato a una radio di Detroit che non terrà più concerti, quindi probabilmente non la vedremo più esibirsi dal vivo, cosa che ci rattrista, perché Aretha dal vivo sa regalare grandi emozioni, come durante l'esibizione del 29 dicembre 2015, quando ha eseguito il brano You Make Me Feel Like a Natural Woman durante la cerimonia per il conferimento dei Kennedy Center Honors a Carole King, autrice del brano, ottenendo la commozione del pubblico, tra cui quella del presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama. E iniziamo proprio dall'ascolto di questo brano, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind. Cause you make me feel, you make torniamo a dare il benvenuto dopo molti anni di distanza a Irene Biemmi. Irene Biemmi è ricercatrice del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze, è un'esperta in pedagogia di genere e delle pari opportunità e soprattutto è stata una delle prime interviste che abbiamo fatto quando abbiamo iniziato le prime puntate di Frequenze di Genere, proprio per un libro che era uscito ai tempi da molto poco tempo. Il libro di cui stiamo parlando è Educazione sessista, stereotipi di genere nelle elementari, e appunto uscì nel 2010 con una presentazione di Dacia Maraini ed era edito da Rosen Megesselier di Torino. Benvenuta Irene, anzi bentornata. Grazie, sì, mi sento a casa anche se è passato tanto tempo. Allora, cara Irene, il tuo libro ha avuto molto successo, tanto se ne è parlato e questo ci ha fatto veramente piacere. Facciamo un piccolo riassunto per chi molti anni fa non ascoltò quella bella puntata, spiegando un po' di che cosa parla questo libro, perché è una ricerca che tu hai fatto su 10 libri di lettura della quarta elementare dei più grandi editori, perché si leggono De Agostini, Giunti, La Scuola, insomma, e tanti altri, e sei andata ad analizzare che cosa raccontavano questi libri ai bambini e alle bambine nel luogo che dovrebbe essere paritario per eccellenza, ovvero la scuola elementare. Esatto, sì. Questa ricerca ha avuto poi una lunga vita, appunto, è stata più volte ristampata e poi riedita, e questo vuol dire che probabilmente sono andata a mettere il ditino su un piccolo nervo scoperto della scuola italiana rispetto all'elaborazione, appunto, delle questioni di parità di genere. E ho messo il dito proprio sulla scolastica, sui libri di testo scolastici, e ancor di più sono andata a fare i nomi, appunto, degli editori incriminati in qualche modo, e credo che questo abbia colpito non soltanto, appunto, il mondo della scuola, le maestre, ma anche, per esempio, molto i genitori, no? Che spesso e giustamente anche si affidano ai libri di testo, in particolare a quelli delle elementari, che sono i libri più cari, i libri che tutti portiamo nel cuore, perché sono i libri su cui abbiamo imparato a leggere, a scrivere, e quindi è in qualche modo molto difficile prendere le distanze dai libri di testo della scuola primaria, proprio perché hanno, come dire, un carico emotivo molto forte, secondo me. Io mi sono messa ad analizzarli analiticamente da una prospettiva molto specifica, che è appunto quella della questione della parità di genere, quindi sono andata a sviscerare proprio su un campione abbastanza ampio di circa 350 storie qual è la rappresentazione del maschile e del femminile che viene portata avanti giorno dopo giorno nelle aule della scuola primaria attraverso maestre, soprattutto donne, spesso ignare, inconsapevoli di utilizzare un materiale che è effettivamente discriminante, sessista. Giusto per fare un paio di esempi dei risultati di questa ricerca, appunto, dallo studio emergeva, per esempio, un primo semplice divario di tipo quantitativo, e cioè che nei libri di lettura, che sono delle antologie, appunto, che vengono utilizzate a scuola, molto più spesso i protagonisti delle vicende sono di sesso maschile, quindi i protagonisti sono uomini o bambini maschi che stanno nello spazio pubblico, si muovono liberamente, fanno mille mestieri, sono i padroni dello spazio pubblico e sono molto visibili. Al contrario, le donne e le bambine si ritrovano in una percentuale molto minore, quindi sono oscurate da questa forte presenza maschile, e anche i loro ruoli sono di minor rilievo. Forse lo spaccato più forte emerge proprio dalla rappresentazione delle professioni, e emerge infatti che mentre agli uomini sono attribuite addirittura 50 diverse professioni che spaziano dal geologo all'esploratore, all'ingegnere, allo scienziato, al direttore d'orchestra, e nel caso delle donne, appunto, le professioni attribuite sono pochissime, sono solo 15, la maggior parte delle donne fa le maestre e nel peggiore dei casi ci ritroviamo delle principesse, delle fate o delle casalinghe. Ecco, questo è un pochino lo scenario. E, i dati sono stati assolutamente inaspettati e disarmanti e mi pare che comunque da quando è uscito il libro, ormai 8 anni fa, non si può certo dire che la situazione sia migliorata in realtà. Non si può dire che la situazione sia migliorata perché c'è stata una ricerca successiva, perché appunto sono passati 8 anni praticamente dalla pubblicazione di questo testo e ad oggi la situazione com'è? Allora, il problema è anche questo, che in realtà ci sono pochissimi studiosi e studiose che si occupano di questo tema, quindi è difficile anche monitorare il cambiamento, però per fortuna mi è venuto incontro un mio collega, un pedagogista che si chiama Cristiano Corsini, che insieme ad una sua giovane collaboratrice Irene Sherry proprio l'anno scorso ha pubblicato un libro che si chiama Differenze di genere nell'editoria scolastica, edito da Nuova Cultura Roma, e in questo libro fa un po' il punto della situazione, perché mutuando la mia griglia di analisi, quella che avevo creato ad hoc per educazione sessista, Corsini e Sherry vanno ad aggiornare i dati all'anno scolastico 2014-2015 e malauguratamente viene fuori da questo studio che tutti gli indicatori ci dicono che dal tempo in cui ho effettuato la ricerca ad oggi la situazione, anziché essere migliorata, è decisamente peggiorata. Decisamente peggiorata, per cui se per esempio il divario nelle professioni nel mio libro era di 50-15, il libro di Corsini e Sherry dimostra che le professioni dei maschi sono aumentate e quelle delle donne diminuite, la percentuale di protagonisti maschili è ulteriormente aumentata rispetto a quella femminile, e emerge un dato direi veramente sconcertante, e cioè che anche gli editori scolastici, che nel frattempo si sono dati il famoso bollino Polite, cioè pari opportunità nei libri di testo, cioè testimoniano di aver adeguato i propri libri al codice di autoregolamentazione per la parità di genere, anche quei libri appunto che hanno il bollino si comportano come tutti gli altri, quindi non si constata purtroppo una differenza tra gli editori che hanno e quelli che non hanno il Polite, e il motivo di questo è abbastanza chiaro, perché il Polite è una sorta di autocertificazione che si dà all'editore, ma non esiste alcuna ente, alcuna autorità garante del controllo di questi libri e della corretta applicazione del Polite. Ecco. Irene, proprio a proposito di quello di cui ci hai parlato, in particolare il divario che c'è a livello di professioni che vengono raccontate all'interno dei libri di testo che bambini e bambine usano alle elementari, che sappiamo essere un elemento molto importante, perché vedersi raffigurati anche solo in una storia aiuta a immaginarsi e quindi aiuta anche a sviluppare il pensiero di ciò che si potrà fare da grandi. Ecco, diciamo, se la situazione rispetto a quando tu hai fatto l'analisi non è migliorata, c'è da dire che però per fortuna sono nate delle case editrici con una particolare attenzione, e infatti tu sei una delle autrici di un altro libro molto carino che si chiama appunto Cosa faremo da grandi, che ha avuto il patrocinio dell'UNICEF ed è edito da 7-9, una sorta di, appunto come dice il sottotitolo, prontuario di mestieri per bambine e bambini. Di cosa parla? Che cosa faremo da grandi? Allora sì, questo è un libro di cui sono particolarmente orgogliosa, l'ho pubblicato con un editore amico, 7-9, quindi grazie anche alla collaborazione con Monica Martinelli e grazie a una collaborazione appunto con UNICEF Italia, perché questo libro ha avuto questo importante patrocinio, e questo patrocinio per me è importante perché, come si legge poi nell'introduzione al libro fatta proprio dal Comitato Italiano per l'UNICEF, UNICEF, la questione della parità di genere non è una questione ideologica, è una questione invece che riguarda i diritti fondamentali dei bambini e delle bambine. E questo libro, Prontuario dei Mestieri, è un sottotitolo che abbiamo creato in maniera quasi un po' didascalica, che sta a indicare, è nato da un'emergenza proprio questo libro, uscivo fuori proprio da questa ricerca di cui ho appena parlato, quindi questo scenario terribile, no? Di un immaginario castrante, no? Che viene offerto alle bambine sui banchi della scuola primaria, e quindi quasi a voler compensare ho deciso di scrivere questo grande albo illustrato dalle grandi dimensioni e dalle illustrazioni bellissime di Lorenzo Terranera, che effettivamente potesse dare uguali opportunità ai maschi lettori e alle bambine lettrici di progettare il proprio futuro. Per farlo ho costruito un grande dizionario visivo dei mestieri, in cui appunto ciascun mestiere è declinato al maschile e al femminile, come a dire che appunto maschi e femmine hanno esattamente le stesse opportunità, devono avere le stesse opportunità di immaginarsi nel futuro. I pedagogisti parlano di creare un medesimo campo di pensabilità, si dice, no? Quindi di creare un ventaglio di possibilità e di equivalenti per gli uni e per le altre. E credo che insomma questo progetto nella sua semplicità abbia avuto buoni effetti proprio perché si basa su questo principio. Allora Irene, ci fermiamo un attimo per ascoltare il prossimo brano di Aretha Franklin, e visto che abbiamo molte cose a cui pensare rispetto a ciò che ci hai detto, il prossimo brano è Think. Allora, siamo sempre al telefono con Irene Biemmi, che è un'esperta in pedagogia di genere e pari opportunità, nonché ricercatrice della Università di Firenze, e stiamo parlando con lei di libri di testo, in particolare libri delle elementari pieni di stereotipi sessisti e anche nuove case editrici che ci permettono di cercare di superare un po' questi stereotipi laddove non riusciamo a superarli nei libri di testo e negli ambienti paritari per eccellenza, che abbiamo detto appunto essere le scuole, insomma, che almeno pensavamo fossero le scuole. Allora, in questa seconda parte della puntata, Irene, vorrei che ci parlassi un po' di nuove uscite che ci fanno ben sperare, perché tu ci hai raccontato di una tua ricerca del 2010 che vedeva libri di testo per scolastici pieni zeppi di stereotipi. Una nuova ricerca, sempre dello stesso genere, ha ulteriormente confermato che la situazione è soltanto peggiorata, quindi insomma lasciaci con un respiro un po' di speranza. sì, volentieri, abbiamo tutti bisogno di una boccata di ossigeno, e direi che queste boccate di ossigeno ormai arrivano anche in Italia, non arrivano certamente dal mondo dell'editoria scolastica, ma arrivano invece dalla narrativa per l'infanzia e per ragazzi, proprio dal mondo della letteratura per l'infanzia. Negli ultimi anni, proprio a partire dal 2012, sono nate case editrici e collane dedicate interamente a questo tema, e anche editori generalisti insospettabili ormai hanno nel loro catalogo più e più titoli che fanno riferimento proprio al principio della parità. Tra gli editori, appunto, 7-9 senz'altro, che è quello con cui ho collaborato per il libro di cui parlavo prima, e poi la collana che io stesso curo insieme a Luisella Arzani per Gira l'angolo, che è la collana Sottosopra, una collana di albi illustrati proprio per i bimbi e le bimbe della scuola d'infanzia e primaria, improntata proprio al principio dell'interscambiabilità dei ruoli maschili e femminili, no? Quindi in questi albi illustrati Sottosopra troviamo nonne che guidano il trattore mentre i nonni stanno a casa a cucinare torte e a fare lavatrici, ma anche principesse forti, intelligenti, che combattono i draghi a colpi d'astuzia, diciamo così, e quindi si crea quell'immaginario più ampio che dicevamo. Per quanto mi riguarda, anch'io in questi ultimi anni, oltre a curare la collana, sono diventata a mia volta autrice di libri per l'infanzia, e un progetto che ho proprio ora in uscita, che uscirà a fine giugno, è un doppio progetto che ho fatto con l'editore Giunti, di nuovo patrocinato da UNICEF, e che si tratta di due libri che seguono lo stesso meccanismo. Sono due libri per la fascia 0-3 innanzitutto, quindi proprio per i piccini, per i bimbi e le bimbe del nido, perché avevo notato che per questa fascia d'età, appunto, c'era poco o niente di esplicito su questo tema, e quindi con una soluzione cartotecnica del tutto particolare abbiamo creato con Giunti questi libri che si aprono da due lati e si intitolano Cosa fanno le bimbe, cosa fanno i bimbi, cosa fanno le mamme, cosa fanno i papà, e la grande sorpresa che troveranno i bimbi e le bimbe nel leggere questi libri con i loro genitori è che i maschi e le femmine possono fare esattamente le stesse cose. Quindi anche in questo caso il messaggio è molto limpido, molto, molto chiaro, ma nel suo essere così semplice credo che sia un messaggio potentissimo. Quindi in questi libri si scorrono immagini e parole in cui ci sono bambine che corrono, che saltano, che cantano, che ballano, fanno gli scherzi, si arrabbiano, piangono, ridono, e subito dopo ci sono i bambini maschi che fanno esattamente le stesse cose. Così come, e forse questa è la cosa più dissacrante, se ci sono mamme che preparano la colazione, leggono il giornale, guidano la macchina, raccontano storie buffe, profumano di buono, ci sono al tempo stesso papà che fanno esattamente le stesse cose, preparano la colazione, guidano la macchina, raccontano storie buffe e profumano di buono. Quindi il messaggio per me è questo: maschi e femmine non hanno ruoli complementari, ma assolutamente interscambiabili. Irene, ti facciamo un'ultima domanda, difficilissima probabilmente, a cui ti chiediamo di rispondere in maniera super breve, quindi insomma proprio una domanda da $1,000,000. Sì, proviamo. La domanda che ti facciamo è questa: tu appunto ci hai parlato della tua ricerca del 2010 e ci hai parlato del fatto che la situazione adesso per i libri di testo per la scuola è addirittura peggiorata. Allora ti chiediamo, una docente o un docente che volesse cercare di fare un'educazione non sessista, ma si ritrova in maggioranza questi testi da scegliere, in cui effettivamente non c'è una grande possibilità di scelta, cosa può fare? Sì, che brutta domanda. Una domanda bruttissima. In realtà ad oggi si può far poco, perché editori dedicati al tema in maniera lungimirante per adesso non ce ne sono, ma forse sono convinta che, visto che si è alzata l'attenzione sul tema, ci saranno. In attesa che arrivino dei buoni libri, le maestre senz'altro possono dotarsi di un minimo di strumenti critici per decodificare questi libri. libri per decodificare gli stereotipi, per arrivare a fare le adozioni quindi in maniera più consapevole, quindi scegliere i libri che non presentino rappresentazioni discriminanti, prepotenti sul maschile e sul femminile, e magari laddove i libri peccano in qualcosa si può cercare con buona volontà di supplire anche con documenti, testi di narrativa alternativi. Come dicevo, nella letteratura per l'infanzia e per ragazzi ormai c'è veramente un mondo di possibilità infinite di lavorare su questo tema, quindi c'è da rimboccarsi le maniche e sperare comunque che i testi a breve migliorino, i testi della scolastica intendo. Cara Irene, la domanda era brutta, la situazione non è delle migliori, però la tua risposta è stata molto efficace, insomma, e quindi ci auguriamo di essere riusciti a dare una breve panoramica su quello che è il mondo della scuola adesso, ma soprattutto di aver lasciato alle persone, docenti ma anche genitori, qualche strumento per poter pensare di cambiare la situazione che è in corso. Noi ti ringraziamo molto e a risentirci presto. Grazie a voi per il vostro lavoro. Ciao, arrivederci. E abbiamo ascoltato l'intervista a Irene Biemmi e speriamo che vi abbia dato anche dei consigli per dei libri da regalare ai bambini da leggere durante le vacanze estive. Quindi, cari genitori, magari regalate dei libri che smontino questi famosi stereotipi di genere. Sì, esatto, i famosi libri da portare sotto l'ombrellone, ecco, combattete il sessismo anche in spiaggia, anche al mare, e portate sotto l'ombrellone qualcuno di questi testi che sono molto semplici, perché nella loro semplicità si vede anche tutta l'evidenza dell'insensatezza dei nostri stereotipi, degli stereotipi che portiamo dentro di noi. Noi crediamo di avervene dato, insomma, un ampio ventaglio di dove tutti questi stereotipi si annidiano, perché ve lo diciamo sempre, le questioni di genere riguardano la nostra vita a 360 gradi, ogni ambito della nostra vita è in un qualche modo toccato dalle tematiche di genere, in ogni ambito della nostra vita questi stereotipi ci sono, impariamo a riconoscerli per potercene liberare se ci vanno stretti, perché magari con alcune cose ci possiamo anche stare bene, sono dei vestiti che magari addosso ci stanno bene, ma non tutti. Allora, essere in grado di riconoscerli per potersene liberare è assolutamente fondamentale per quello che pensiamo noi che ci riguarda, che è quello insomma che abbiamo cercato di fare in tutte queste puntate, perché appunto questa, cara Vivi, è l'ultima delle nostre puntate. Come ti senti, già un po' nostalgica? Sono già un po' nostalgica e un po' triste, di sicuro mi mancherà la radio, ma mi consola pensare che molto probabilmente torneremo a ottobre. Sì, mi consola pensare anche che per chi avesse perso qualcuna delle nostre puntate può sempre ritrovare i nostri podcast dal sito della radio, di Radio Città Fujiko, o anche se avete Facebook, se siete social, potete cercare i nostri podcast sulla nostra pagina Facebook Frequenze Sui Generis e riascoltarvi insomma le puntate con gli argomenti che vi interessano di più. Noi comunque vi ricordiamo che la pagina Facebook resterà attiva, quindi potete seguirci, diventare nostri amici, quindi con Frequenze Sui Generis, o anche nella pagina Deneb Frequenze di Genere. Noi continueremo ad aggiornare con notizie che hanno a che fare con le tematiche di genere. E a questo punto, Mari, non ci resta che salutare tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, e anche ringraziarli per averci seguito durante questo anno. E quindi sì, siamo arrivati proprio alla fine, vi salutiamo e vi lasciamo in compagnia con il resto della programmazione del lunedì di Radio Città Fujiko.